Niente di che, roba si è risolta subito. Per fortuna fregature mai, su eBay, cioè bene o male i venditori erano conosciutissimi, i venditori storici di eBay, quindi niente sorprese. Però quando trovi quei venditori poco conosciuti che vogliono il pagamento tramite PostPay, quello è un po' ambiguo. Tanto ti possono dare anche il numero di telefono, quello che vuoi, tanto li usano, usa e getta quei telefoni, quei numeri di telefono, poi non rispondono più, eccetera. E ce n'era uno dal sud Italia, non mi ricordo la regione, non me la ricordo con sicurezza la regione, che vendeva roba amatoriale, radio amatoriale, forse anche CB, ed era un truffatore seriale. Si sapeva anche nome e cognome, infatti dice che lo stavano cercando lì al sud Italia. Poi lì non vanno molto per le spicce, mi. Lo volevano gambizzare, lo volevano. Oh, yeah. No, guarda, più che altro mi sono capitati alcuni disguidi, chiamiamoli così, con alcuni corrieri, dove un paio di volte, una volta proprio ho trovato l'imballaggio proprio col buco, cioè tipo che c'entrava anche una mano, cioè non era, secondo me non era buco che si è fatto accidentalmente facendo volare i colli, proprio c'era il buco grande da farci entrare una mano, infatti mi ero incazzato parecchio. E poi una volta avevo preso un vecchio giradischi dalla Germania e nonostante l'imballaggio fosse fatto bene, ho trovato il basamento del giradischi che era in legno, praticamente ho beccato un angolo che si era spaccato praticamente, e infatti anche dal cartone si notava praticamente il cartone schiacciato, e quindi anche lì ho fatto, insomma, ho fatto un po' di casino. E poi forse un'altra volta, però non mi ricordo a che titolo, ma sempre riguardo imballaggi che poi volano alla fine. Sì, infatti servirebbero scatole di cartone. Molti venditori usano quelle buste dei corrieri, buste in plastica che chiunque può basta tirare, fare il foro, vedere cosa c'è sulla scatola, se è che scritta compaia, no? Se è un cellulare, se soprattutto i cellulari vanno veramente a ruba. Anche, hanno fatto vedere anche riprese di telecamere, non so di dove fosse, se Stati Uniti, Inghilterra. Il corriere, no? Era venuto a portare il pacco, un altro corriere, no? Ha visto che c'era un pacco depositato davanti alla porta, sai quei giardinetti un po' all'americana, c'era il pacco, praticamente c'era scritto che conteneva un cellulare, ha mollato il pacco suo, cioè l'ha mollato lì, si è preso il cellulare che giaceva sulla soglia, il pacco del cellulare. Se lo vai tra l'assi. Oh, yeah. Ma no, vabbè, per il resto ti ripeto, le uniche cose che ricordo adesso a memoria, guarda, mi sono più incazzato per gli imballaggi, le volte che è successo, che per quelle piccole cose che ho detto prima. No, vabbè, l'imballaggio dei giradischi già era fatto bene, cioè scatola grande in cartone, abbastanza grande, con imballaggio dentro di carta e altre polistirolo e cose varie. Nonostante tutto sicuramente ha preso colpi, ha preso un bel colpo, e comunque dai, poi alla fine sono riuscito a incollarlo, chiaramente per via di quel piccolo danno l'ho dovuto vendere qualcosina in meno, comunque poi alla fine bene o male già sono rientrato con le spese, dai. Spiega. Una volta invece mi è capitato che avevo preso, sai quelle sciarpe mimetiche a reticella? Sì, sono sciarpe a reticella fitta, mimetiche, no? Quella roba che si usa anche per i soft air, roba del genere. Era arrivato dall'Olanda, no? Un pacchettino in cartone, poi sai che belli i francobolli olandesi con i papaveri, no? Cosa sono? Tulipani? Insomma, lì magari l'hanno passata la Gix, hanno visto questa roba confusa, no? Tipo fogliame, magari credono fosse erba, ispezione postale, cioè era aperto, ispezionato e richiuso col nastro postale. Poi c'era una sciarpa a rete mimetica. Ho capito che tipo di a cosa ti riferisci. Ne ho una sciarpa così elasticizzata, maglie un po' larghe, che è comodissima, bella grande, l'avevo comprata anni fa, non mi ricordo dove, però qua a Sassari l'ho presa, no? su internet. No vabbè, io ho preso anche dei ricambi per reagire ai dischi Technics che ho da Giappone. Ho preso vari componenti, lo slider per la velocità del piatto, insomma altri componenti elettronici, non ho mai avuto problemi, capito? Germania, Giappone, Albania, in Grecia, addirittura ho preso roba anche dagli Stati Uniti, ho preso un caricabatterie, tre batterie per la videocamera professionale che ho, le avevo prese negli Stati Uniti. Ho preso anche un microfono a clip wireless, credo, della Sony, vabbè, non roba professionale, roba consumer. E niente, non ho mai avuto problemi. Poi per il resto, a parte quelle due tre stronzate, tutto molto bene. Ehi, adesso rilancio Luca. Mi ricordo che anni fa c'era un corriere giovane, un ragazzino con i capelli lunghi, lavorava per SDA, che puntualmente bussava, se non c'era nessuno mollava il pacco nel portone, cioè firmava lui e lo lasciava lì, portone quasi sempre aperto, anche se il battente era appoggiato, chiunque entrava poteva portarselo via. E insomma, la terza volta ho chiamato SDA, una volta l'ho trovato che andava già via, entro nel portone e c'era il pacco, e l'ho chiamato, ho detto scusa un attimo, chi avrebbe firmato per questo pacco abbandonato nel portone? No, ha firmato una signora, insomma lì ho chiamato SDA, gli ho detto che volevo andare in fondo a questa storia. Che a me non mi va che firmino a nome mio, tipo sostituzione di persona, comunque c'è un reato proprio apposito. Poi non si è più visto dopo un po' di tempo, probabilmente l'hanno riciclato in qualche modo. Ehi, avanti Lu. Ehi, mi sono connesso al telefonino, alla TV Smart, metto qua la nuova serie tramite YouTube, con screen mirroring, conoscete? Sì, una curiosità Luca, la qualità com'è? Ti spiego, io l'ho fatto quello, il mirroring con, come si chiama quello che usavo io? Google Chromecast, ed era tutto poco definito, non si vedeva di cacca. Ah, si pronuncia mirroring così, o mirroring? Mirroring. Poi ho saputo il perché, non so, per quel tipo di cose è meglio usare il wifi a 5 giga o quanto è, perché ha più larghezza di banda, c'ha meno portata ma c'è una larghezza di banda che va bene per queste cose, tipo proprio questo del mirroring dello schermo. Gianni, tu hai presente, no? No, negativo Marco. Guarda, ti ho mandato la foto, si vede benissimo, nitida, bella. Vabbè, c'ho il 40 pollici, quello lì è un po' più vecchiotto, della Samsung, non è smart però. Poi ne ho un altro smart, 40, solo che c'è il pannello danneggiato. Il pannello LCD. E niente. Cazzo, qua funziona abbastanza bene. C'è una piccola riga che non dava con fastidio, il display. Me lo uso così, finché va. Cioè tu per vedere, che ne so, YouTube sulla TV devi usare quel sistema, così è? No, solo vado su internet e mi apro internet direttamente. C'è anche l'internet, la televisione. È già connesso, capito? E vado su YouTube, vado su Google, Vado, cioè, poi c'è, vabbè, ci sono anche Netflix, non si chiama, Netflix. Poi gli altri, ce ne sono tanti, cioè, quelli lì sono a pagamento. Sì, quelli sono a pagamento. Oppure c'è il Santo Emule o il Santo, come si chiama quell'altro? Ma non mi viene il nome. Torrent. San Camillo c'è anche. Santo Vaticano. Va bene, ma soltanto cosa. Per quello che lo guardo io, poi metto l'autospegnimento e va tutto da solo, si spegne da solo. Poi mi addormento, capito? Eia, ciao Claudio, ben entrato. Eia, sì, cosa dove eravamo arrivati? Sì, quindi c'hai, come dire, non mi viene il termine, già ho capito. È Smart TV, dai. Esatto, Smart TV. Sto facendo l'autospegnimento. Ma è abbastanza carino. Va bene. No, io ho un televisore a cristalli liquidi, uno dei primi della Grundig. Devo usare una TV box Android per vedere internet. E praticamente internet la prendo, la rete la prendo dal cellulare. È tutto lì. E questi televisori adesso poi cambieranno tutto, bisogna da comprare il decoder pure. Vabbè, il tuo sicuramente è aggiornato. C'è pure Smart TV, sicuramente è quell'ultima versione. Nel 2022 cambieranno le cose. Un telecomando in più da gestire, ma vabbè. Speriamo di si rompa il televisore piuttosto, così almeno si cambia direttamente. Vai Claudio. Fate che mi sto ascoltando questo, mettendo a posto qua la radio, che ho fatto degli spostamenti, già sono qua. No Marco, mi sa che questo qua è, ho controllato 2013, questo è del 2013 lo smart. Sì, infatti adesso mi conto un attimino l'aggiornamento del software, lasciate un attimo, allora. Riprendi Gianni. Eia. Bene meda. No, ho acceso il televisore su Motor Trend e c'è quel cialtrone, quel pidocchioso che prende le macchine, Kido Ingrisu, che è convinto che fate di tueto. Adesso mi sfugge il nome, dai, mi fa solo ridere. Aspetta, è che no, non è un canale che seguo, ma non è per caso quello un po' così robustello e poi quello alto con i capelli bianchi che aggiusta le macchine, no? E poi le vendono. Affermativo, sì, quello a fare a quattro ruote, dai. Grazie. Roba di pidocchioso, cazzo. No, molte volte il cazzo becco delle immagini dove si vedono delle cose, ci sarebbe da fare cazzo lo screenshot e quindi mi la faccia, cazzo, per carità, ogni truffa, cazzo, cioè vabbè, non mi dicono niente di nuovo, ci ho lavorato in televisione, quindi so esattamente come vengono confezionati queste cose qua, quindi mi metto a ridere qua. E poi sicuramente anche di macchine, di particolari meccanici, sicuramente ne sai più di me. A me piaceva quel programma. Ma chi è che ti sta sul culo? Quello bruno o più paputtello oppure quello alto 2 metri e brizzolato? No, tu stai dicendo, no, è di China, il meccanico, cazzo, quello c'ha un cranio, no, indifferente, quello c'ha, stavo leggendo una volta un po' di informazioni su di lui, no, ma è, quello sì che, no, ma mi riferisco all'altro, Mike, come ti si chiama, che so tutto io, capito, è un bel testoso proprio, un bel piano di sé, cazzo, cioè che tu sei quasi l'ugure e questo si prende i meriti, cazzo. No, vabbè, dico, a parte le cose discutibili, no, molte volte, cazzo, riparano macchine, cazzo, cioè, insomma, quello che traspare è riparare macchine a 2 soldi, vendendole, cazzo, 3 volte tanto. No, ma proprio mi fa ridere lui, capito, è proprio spocchioso, cazzo, capito. Comunque, dai, mi fa ridere nel complesso, poi, vabbè. Ci sono alcune cose interessanti dello spilungone, insomma, che meccanicamente è molto preparato. Ah, se non mi ricordo, perché sto guardando su internet per capire se questo qua, vabbè, io avevo scritto in che anno era uscito lo Smart, come sai, era uscito nel 2012, penso, 2013, così. Però per capire se questo qua è, va bene per il nuovo digitale terrestre, cioè, voi sapete qual è, cosa devo fare. Cioè, ma è una domanda, sì, pigliare un decoder, quello con la DVB-T2 c'ha un codec particolare, stanno cambiando il codec, no? Sì, saranno più ad alta definizione che le immagini probabilmente, però mi pare che è un codec che comprime ancora di più i dati e quindi immagino che le squadrettature, bene o male, a un occhio attento si vedano lo stesso. Cioè alla fine mi aumenti la definizione e mi comprimi di più il flusso dati, boh. Contenti loro. Sì, ma che canale bisogna andare? In che canale bisogna andare? Beh, adesso non mi ricordo, c'era un canale dai, che ti... se ti faccio vedere questo canale è tipo 220 così, boh. Ah, un canale di test per caso. No, di quello non so nulla, Luca, non mi ricordo più. E Gianni, tu ti ricordi cosa? Che il nome del decoder, cos'è in PEG 4? Dove sono arrivati come compressione? Mi sfugge. Boh, per quello che mi risulta mi sono fermato all'MPEG 4, poi non, dite la verità, non mi sono più interessato alla cosa, dai. Quindi non posso essere utile. E poi sarà marginale, tanto mi basta comprare il decoder, se si vede è di lusso, però sempre un telecomando in più, tu fili in più, capito? Andiamo un po' una rottura di scatole, vabbè. Vabbè, adesso lo digito su internet, vediamo le caratteristiche di questo nuovo fantastico compressore. Marco! Via? Sono Gianni, come sto uscendo? Fa un passaggio lungo, mi sembra buono. Ma sono sta uscendo. Ma stai uscendo già. Marco, ho detto mezzo secondo di audio e poi è uscito di portante. E allora non c'è niente da fare, ho fatto la massa anche per vedere se era quello, ma non è. Ma Gianni, cazzo, posso fare un'altra cosa? Dove puoi tagliare quel coso, quel piolino? Cazzo, mi sei doccia, mi tagliato l'hai. No, non ho io piolino, Claudio, c'è solo quell'affare che spinge la portante e basta, ma piolino non ne ho. Cosa di geni, c'è, ti ho detto che è una risega, praticamela come vuoi, una bavattura, è proprio dove, quando tu pigi il tappo grigio del PTT, quello in plastica, ci sono a destra e a sinistra dei tacchettini rotondi, quello lo devi togliere. A me non ci sono, l'ho smontato adesso, ho guardato adesso, guarda. Ma cazzo, io ho comprato nuovo, cosa vuoi dire? Comunque se tu non togli quello lì non fa, perché se stai attento quel piolino va a toccare quando tu pigi, scusate, quello lì quando va a toccare sulla scheda del circuito stampato e non ti fa fare contatto bene. L'ho fatto io. Vabbè, ma adesso mi stai ascoltando, come sto uscendo adesso? Sei un po' a scarichi, ma stai uscendo. Non capisco cosa sia, allora c'era un filo che era mezzo staccato, l'ho rifatto la massa, piedi così non posso fare, mi esce di la gara, l'ho smontato tutto, l'ho rimontato adesso, in questo momento. No, si a scarica già, io ti sto dicendo che è quello, io ci ho messo 2 minuti, me ne sono accorto subito, ed è perfetto, se io non facevo quello, ho spruzzato di tutto, non c'è niente da fare, non c'era niente da fare. Vedi un po', non so, io ho detto, se non riesci a farlo, lo faccio io. Io l'ho fatto e funziona bene. Tu vabbè, dai, riprovete voi, no, non so cosa io. Prego, mi dici tu perché non c'è niente. Magari lì c'erano e qua non ci sono, c'era stato qualche difetto di fabbrica che c'era lì. Allora vici Gianni, cazzo mica mi muovo il pantalone che a casa due lavami. Torra. E vabbè, comunque Io l'ho controllato e così. Riprendete ragazzi, dai, scusate per il tempo. Tu devi fare come ho fatto io, vedrai che si bene, sei tutto a scarica, non stai andando bene. Dai, riprendete che sto facendo cose anch'io. Riprendi, scusate se vi ho interrotto. No, ci mancherebbe, dai. Sì, già, molto a scariche, troppo, troppo a scariche. Sì, ma è bello che c'è un attacco rudiente. Aspetta, avete parlato in due. Vai Gianni, c'è l'attacco? C'è l'attacco. Di nuovo sparito di radio, ho capito però che se l'attacchi al Galaxy non lo fa. Ma cioè, scusate se mi prometto di nuovo, il Galaxy Gianni ha un PTT a relè, il 3009 non ha il PTT a relè, te l'ho già spiegato, può darsi che sul Galaxy va bene perché avendo il PTT a relè aggancia prima, il 3009 non ce l'ha a relè, ok? E quindi può darsi che sia quello il problema. Cazzo te lo gioco di Zendico, fai come lui. Ma il problema è proprio il PTT vero e proprio, cioè i contattini che quando pigi il tasto, così è, e non si può sostituire tutto il PTT interno. No, no, lo faceva anche a me, se ne è accorto lui. E gli ho detto, sfruttare un po' di spray per i contatti, l'MB più 5 è comprato nuovo, li ho sfruttato, nulla va. Poi l'ho riaperto, gli ho messo appena appena di olio Singer nella molettina che spinge il PTT, nulla la va. Poi ho detto, cazzo, ma non deve vincere lui. L'ho riaperto, guardando bene con gli occhiali grossi, con la lente pratica, ho visto che questi due puntini, queste due, che sono tipo fine corsa del coso grigio, dell'affare in pratica che spingi per dare il consenso al PTT, uno di quelli andava a toccare sulla scheda, sul circuito scampato di amplificazione. L'ho tagliato con la tronchesina, con la lima delle unghie, perché non puoi fare altro, l'ho limato, l'ho fatto piatto. Ho piazzato il microfono e un bijou, non l'ha più fatto. E vabbè, dai, si risolverà un po'. Antonio, dimmi, cosa hai detto prima? Ho detto, si può risolvere, dai. Sicuramente è qualche cavolata. Se glielo già dato l'input, è quello lì, perché se glielo faccio io, glielo apro io, il microfono funziona. Il Galaxy c'ha il PTT a relè, quindi aggancia prima, e io tratto da relè. Il 3009 non c'ha il relè, capito? E se non pigi bene il microfono, che il microfono non dà il consenso, non esci. Capo, adesso si può risolvere. Un poco di pazienza avevo, ma che c'è cose, perché sono un pochettino rompiscatole. Sono. Però già ci riesce, dai. Risolto. E non lo senti, sto uscendo. Sì, hai buttato la radio. No, è la stessa radio, il microfono ha cambiato. Ah, ecco, va bene, già, fai come vuoi, io però ecco che ce la fa. Se lo vuoi fare lo fai, se no fai come cagare, se. No, riprendi un attimo. Ma che microfono è Gianni? Cos'è? MB più 5 o altro? Questo che sto usando adesso è l'Astra, è lo Static. E invece l'altro che rifletta è l'MB più 5. Alla statica, lui se non me l'avessi detto, se non avessi fatto orecchio, cioè non me ne accorgo. Kappa, perché male? No, io credevo fosse l'MB più 5, magari con i toni un po' alti. Cioè, se non me l'avessi detto, gira, non avrei saputo. Questo è la static. Vabbè, spiego già, su di me non mi piaceva, io mi ero registrato, mi ero ascoltato, però non mi piaceva già, non mi piaceva. E poi tutti me l'avevano crepato, cioè la statica, quando ho chiesto controlli, tutti bocciato, troppo acuto, troppo metallico, troppo acuto, troppo metallico, mi hanno demoralizzato e non l'ho più usato. Ma già è vero, che è così. Me lo ricordo che io vogliavo la rossa, era la stessa cosa, mi dicevano, quando ero in macchina sentiva il vento e tutto, c'era scritto antivento, invece non era vero. E anche questo c'è gli acuti, ma cosa c'entra? Però la radio è bella, perché a te ti hanno detto che la radio era brutta con gli acuti. Sì, quella statica lì che sta usando Gianni. Io lo usavo sul 3009, l'avevo provato, sì, più che altro sul 3009, però poi con la voce mia da Topo Gigio non andava bene, dai. A Gianni ancora va bene, a te andrebbe ancora più di lusso perché c'hai più i toni bassi, a te, a Massimiliano andrebbe benissimo, a Tino anche. Ma l'ho avuto da qua, l'ho avuto da Tavolo, l'ho avuto da Parma, l'ho avuto in tutti i microfoni, però non mi interessa. C'era anche uno, c'è quello della Game, non conosco, volevo provare Roberto, mica c'è la connessione di quello suo a provare. Adesso vediamo se c'ho tempo domani che lo porto. Fatto, dai, che sto mettendo a posto qua, che ho fatto gli spostamenti. Ehi, ehi, avanti Antonio. Cavolo, ancora ce l'hai con la Static. Cavolo, c'è già un po' di anni, No, non è quello che c'avevo il diavolo rosso, non quello che c'avevo io. Quello lì l'ho venduto. Questo qui è un altro. Questo è un altro Static, un altro modello. Che modello è, Marco? L'M6B. D104M6B. Ma non ricordo che era il diavolo rosso, tanto rosso era. Ah, quello là l'ho venduto. Comunque già funziona bene già. Va bene, dai, io adesso vado e così mi trovo col microfono. Vi saluto tutti cordialmente, continuate il QSO. Buona serata a tutti. Buona serata già. Da un po' di pazienza si riesce a risolvere. Mamma mia, questo dittino che c'ho. Basta che sfiori il PTT, tac, e parte, porca miseria. Ah, comunque Gianni, sì, praticamente passeremo dall'MPEG 2 all'MPEG 4. Tutto lì, io credo, qualcosa di più avanzato. MPEG 4 è già basic, se vogliamo. Riga, ciao doppio, buonasera. Sì, vabbè, mi sono distratto un attimo. Sì, ti ripeto, poco fa te l'ho detto, che non sono per niente aggiornato sulla questione, quindi non fai affidamento su di me. Comunque dai, Bianco, per me che vado a recuperare una cosa. Tutto di nuovo, ciao anche a te, Rudolfo. Eia, ok, vabbè Gianni, Luca c'è ancora? Beh, buona continuazione. Ehi, ascolta, ma questo difetto di quel mic di prima, come dire, ma è una cosa che fanno tutti gli MB più 5 prima o poi, è una cosa particolare? Ma non è un difetto, è un... Marco, non so come dirtelo, perché io ho due serie, ne ho tre, due serie sono vecchie, non sono dove c'è, non c'è scritto c'è. Questo nuovo l'ho comprato, ho fatto questo difetto. Ok, non è penso un difetto, non lo so, boh, forse è così. O magari smontandolo, cosa succede? Che puoi aver mosso, anche quello puoi fare Gianni, aprirlo, ci sono le quattro vittine del circuito stampato, mola le quattro vittine, sposta il circuito stampato più indietro possibile, perché magari smontandolo l'hai portato troppo avanti e quindi il PTT non fa tutto il fine corsa, perché alla fine tocca il coso del PTT, che cazzo lo so come si chiama, la fai di pratica, quando tu schiacci ci sono dei punti dove deve appoggiare, capito? Appoggia prima di fare tutta la corsa e quindi non ti fa uscire, capito? Ehi dai, lo starà guardando, lo starà controllando. Ehi, il mio se ne sta ridendo, chiuso in scatola. Ehi, ma me lo devo aspettare che non... vabbè. Diciamo, si usa di scorta. Metti che mi si rompa il mic normale, che sono senza microfono, al limite si può usare quello. L'MB più 5. E vabbè. Ma quanto si vengono a girare quei microfoni lì? Quanto vengono a costare? Su per giù. Oddio, magari Claudio è più informato, io avevo sentito che erano arrivati a costare 70 euro, il più 5, quello con i toni anche, regolabili, e lo strumentino. L'MB più 4 non ha né strumento né toni, è fisso, mai se bene, dovrebbe costare 15 euro in meno almeno. Claudio, i prezzi li sai? Allora, a me personalmente l'MB più 4 me l'ha fatto 49, l'MB più 5,59 a me. Buono, sì, se, insomma se lo conosce, certo. Comunque anche su internet i prezzi stanno salendo, stanno salendo parecchio, anche per quei microfoni là, prima non erano così costosi. E a parte la ciulata dell'euro, adesso, caso strano, da quando c'è l'emergenza Covid, pure i microfoni sono aumentati, come se fossero mascherine, boh, il colmo è. Sono rientrato. Ehi, già. Vai, riprendi. Sì, comunque tutto lì, niente di che. Ehi, ascolta, ma una, anche per gli altri si notano una differenza particolare. Adesso sono con... Allora, c'ho il volume del mic, l'M95 a metà e il mic gain a metà. Adesso provo a tirare su il mic gain della radio, ce l'ho a metà. Vediamo... cosa mi dice adesso, è tutto al 50%, adesso il mic gain della radio è al 100%, dimmi se cambia qualcosa, è meglio o in peggio? Beh, qua è più piena, più forte, più piena come spinta. Claudio? Sì, anch'io confermo, uguale. Bene, Meda, ma distorcio è pulita? No, per me va bene. No, per distorcere dovresti metterlo al massimo e parlare vicino al mic. La meno 93 poi non, o 95 non spingono nemmeno eccessivamente, sono abbastanza umani, potremmo dire, come microfoni amplificati. No, me ne sono accorto adesso, ho visto che c'era la manopolina del mic gain a metà, infatti ho provato a girare e c'era altra cosa, l'ho vista che era messa così, ho provato a tirare su e infatti era a metà. No, era giusto per sapere, se voi mi confermate che la modulazione è perfetta, è liscia, lo lascio così. Per me la puoi lasciare così. Sì, nessun problema già. Sì, io poi in conto anche usando amplificati, io il mic gain della radio lo lascio sempre al massimo. Cioè, come che non ci sia il mic gain? Certe radio non ce l'hanno perché il guadagno è fisso e cioè, ti faccio un esempio, anziché tenere il mic gain della radio a metà e il mic a metà, preferisco mettere il mic gain della radio tutto a manetta. E del microfono lo metto un quarto, capito? Cioè non voglio fare colli di bottiglia col mic gain della radio, perché alla fine se lo riduci è un collo di bottiglia, è come avere il trimmer chiuso, amico, come questa radio qua. Eia, sì, ma sai cosa deve essere capitato? Siccome ho cambiato la luce dello smitter, no? Chiaramente per levare il frontalino ho smontato tutti i pomelli. E niente, l'ho ripiazzato, ho pulito tutto, frontalino, ho pulito i pomelli, praticamente ho provato l'inizio e fine corsa e poi per incastrare bene i pomelli mettevo le cose a metà e sicuramente mi sono dimenticato di rialzarlo, infatti poco fa l'ho guardato e mi sono accorto che c'era il mic gain a metà, capito? Sicuramente è rimasto lì da quando ho rimpiazzato le manopole frontalino, tutto qua, comunque niente di grave, dai, almeno giusto che ho fatto bene, me ne sono accorto, dai, riprendi Marco o Claudio, vabbè, riprendete. No, già vi ascolto, io dai, già entro con un bel, che sto mettendo a posto qua, ma... qua sei fortissimo, tutti i canali mi splatter, tutti i canali. Ehi, ecco la gioco, Radio Maria. Radio Maria. Beh, è normale, sta già attaccato, Daggio. È come tu la stessa cosa, se io parlo qua e tu te ne vai ad altri canali non mi comprendi più nulla. E poi se attacchi la suffetta. Mamma mia. Ma va bene così. Va bene così, adesso cazzo ma ti bari, stavo uscendo col mic gain a metà, boh, vabbè. La batteria qua del microfono è in piena efficienza, vede rosso, il mitico microfono di Bulldozer, ragazzi, che non ha già più inteso. Sì che entra, ma che Massimiliano. Vabbè, magari quando entra lui non entro io e viceversa. Sì che c'era ieri, me. Eccolo, se era sul 20 o sul 10, sì, ogni tanto entra. Bene, già, poi tu accendi abbastanza tardi, tra virgolette, no? Magari iniziamo a parlare tipo alle 6, roba del genere. Oh, ieri comunque sono stato troppo in radio, ho parlato troppo, alla fine ieri alle 11 ero sconvolto, mi sentivo quasi male. Oh, yeah. Non so, no vabbè, adesso ogni tanto accendo così, adesso poi ti ripeto, avevo altre cose da fare, magari sei impegnato a fare altre, quindi di conseguenza anche io sto accendendo un po' tardi, comunque vabbè, non è un problema, vuol dire che proviamo a accendere un po' prima nei prossimi giorni, dai, comunque tutto sotto controllo. Ehi. Io stavo sempre piangendo, la mia scheda di acquisizione video del Pinnacle, che era la stessa terra-terra, mi roba per VHS, però il processore mio è andato dalla torre, non posso più acquisire da nastri 8 mm o mini DV, se non che mi sono ricordato che un decoder normale, questi decoder per la TV, registra peraltro in modo eccellente su chiavetta, allora stavo pensando di mandare il segnale dalla telecamerina in lettura al videoregistratore, no, dagli ingressi frontali. Puoi usare il modulatore RF, quello famoso che va sul canale 36, no? Sintonizzarlo col sintonizzatore analogico di questo decoderino digitale terrestre e registrare su chiavetta direttamente USB. È l'unico metodo che ho per salvare alcuni nastri, poi tutte menate sono, non è roba importante, però non mi decido mai. Ho capito, ma Marco, con tutti quei giri che fa quel segnale lì, non so poi alla fine che tipo di qualità tu possa ottenere. Se mi dai un minuto ti posso dare una dritta di una periferica USB che potrebbe fare al caso tuo. Però già, sì, no, se si tratta di comprare roba, no, perché poi visto i risultati sono sempre, cioè finché passi da digitale a digitale puro, ma dai nastri è comunque drammatico il risultato. Però vedi, io, quella Pinnacle era già un altro universo, non un altro pianeta, un altro universo. Ho preso di quelle di Amazon da 20 euro, quelle cinesi, quegli attacchini RCA, per carità di Dio. Dio ce ne scampi liberi. Praticamente acquisivo a video senza interlacciamento, cioè con quelle righe sdoppiate, già capito, no? Non era da interlacciato, era tutto un pasticcio, una qualità orrenda, decine di fotogrammi mancanti, una cosa terrificante, audio fuori sincrono, di tutto di più, anche col processore buono e col computer buono. Eia, guarda, io l'ho comprata qualche anno fa, l'ho usata con la mia telecamera professionale, col portatile. Io ho una periferica della Pinnacle bianca a forma triangolare sagomata, si chiama DVC100, è bianca, ha gli ingressi di video composito, audio LR, poi c'ha l'ingresso S-Video con il suo disco driver e funziona molto bene. Poi chiaramente quello con Pinnacle, il software per fare l'editing, l'ho usato e ti ripeto, ho ottenuto sempre degli ottimi risultati, quindi te la consiglio se hai bisogno di una periferica per acquisizione USB, funziona benissimo. Eia, porca miseria, funziona tutto, me ne è volato il cordone, siccome questo spiralato è durissimo. Mi è partito il razzo, il microfono di mano, sbattuto davanti, dietro. Cesso Maria, le comiche. Eia, comunque tu, vabbè, vai su Google e digita Pinnacle Dazzle, come Dario Ancona, Zorro, Livorno Ancona, DVC100, è bianco, a forma triangolare, a forma di goccia. Con un LED davanti, con le prese davanti, sia video composito, S-Video e poi LR per l'audio. Funziona benissimo Marcolì, cioè te lo posso garantire. Tra l'altro l'ho usato per fare determinati lavori, collegando la telecamera professionale, e devo dire che ha una buona qualità, quindi te lo consiglio. Non mi veniva altro. Beh, almeno lo spelling si è capito, no? Sì, si capisce bene. Si è capito. Zorro va benissimo, lo segno, Allora, ho fatto lo spelling a qualcuno in banda materiale, invece di lì, Zurigo, Zorro. Arrego la spada, d'arrego. Pure dici, Zarathustra e Zoroastro. Più una volta è giusto, pigliala in culo, per dire là, no? Così l'hai detto. E allora, c'è quello che dice sempre, come Ancona, e uno ha detto, come a pigliarla in culo. Come si rabbizzona, l'abbia detto. Ehi, allora, visto Gianni, sì, era una candidata quella, diciamo che di un po' qualche anno fa, però dovrebbe funzionare egregiamente con i processori poi di ultima generazione. Diciamo che poi ho detto, non ne spendo più soldi, pazienza. La conosco. C'è anche Nera, mi pare, qua compare anche Nera. Ehi, no, Marco, veramente a parte gli scherzi, te lo garantisco perché l'ho usata svariate volte per fare determinati lavori per una persona, insomma, che mi chiedeva determinate riprese, più che altro sessioni in presa diretta, e quindi collegavo la telecamera direttamente al PC portatile con questo, acquisivo in video composito e la qualità, nonostante fosse in MPEG 2, gliela mettevo su DVD, e figurati, cioè ho fatto anche determinati lavori che sono andati anche in onda in televisione, quindi la qualità è più che accettabile. Quindi se vuoi una mia recensione ti posso dare le 5 stelle, dai. Ehi, sì, vedo anche il programma, qua c'è una foto, sì, roba anni luce, ma io sapevo che erano delle porcherie invece queste di Amazon, no, questa era 20-30 euro ce n'è, ma è veramente terrificante, ma il programma che ti danno, ma non solo, io ho provato a usare il programma Pinnacle con quella chiavetta di Amazon, niente, è proprio la chiavetta il problema. Pasticci, non servono a niente. Dai, riprendi, Luca c'è ancora? Ho visto la foto che mi ha mandato delle... come si chiama? Coso video di Mirroring. Sì, sono qua, ma questa volta non mi serve. Cazzo di asso, mi ha ancora abbisciato. Dai. Ehi. Sì, vabbè, sto esaurendo gli argomenti. Signori, io quasi chiudo, non voglio fare l'orario di ieri. Ok? Ciao Claudio, Antonio, Luca, Gianni, l'altro Gianni se sta ancora lì microfonando, e sentiamo quando capita, ok? Mi accenno un po' di TV. Buona serata a tutti e a pigliarla. Vai Gianni! Vai Cla, vai! No, ma poi mi dico un'altra. Ma pigliarla va bene lo stesso, Ma poi mi dico un'altra, vai bombolo per i saluti a Marco, trattieniti un po', accanto a stasera ci sono io, che sono qua in stanza, che sto facendo dei cambi, perché sono andato via un po' di radio, quindi sto rimettendo tutto in ordine, per non avere buchi. Un po' di guardi da sotto a sopra. Salutone Marco, vai, ce la risentiamo al prossimine. Avanti già. Ehi, mi raccomando, adesso quando stacchi dalla radio non entrare su eBay a comprarti in qualche altro baracchino. Da come ti ho sentito poco fa, quindi vai sempre, come si dice, in pizzili, e quindi tieni d'occhio il portafoglio, mi raccomando. è alquanto chiuso il portafogli, no? Non esce nulla. Un portafoglio già sarrato. Tu da solo a becco, se ti entreremo nel vento. Ma rivenga. Oh, yeah. Comunque, dai, buonanotte Marco, ci aggiorniamo. Alle prossime, comunque ritorno a confermarti la mia recensione positiva su quell'accrocchio che funziona, dai. Poi lo abbini con studio anche il 15 va bene, senza mettergli roba più pesante va benissimo. Bene Mela, dai. Oh, yeah. Avanti Sparviero. Dico Sparviero, con la pincera. Va bene Marcoli, se ti vuoi trattenere siamo qua. No, stavo dicendo a tu, è capitato un'altra volta, no? Che c'era uno in 40, adesso mi ricordo se eravamo in 40 o in 80, non mi ricordo. Comunque, un uomo di 87 anni, un lavoratore, che cazzo, molto ma molto sordo. Infatti ci faceva sempre ripetere le cose. Che cosa hai detto? Non ho capito, cazzo, mi ero già gli rendi le balle. È entrato questo di Capoterra, non ha resistito più, perché diceva M cosa, M di che cosa, M di che hai detto, M di merda! Infatti l'ho ripreso, ho detto no dai così non va bene, detto, M di Mike, Giovanni, M di Mike, perché c'era un contest e non capiva lui la sigla, capito? E lui dice, sei incazzato, sei capoterra, hai detto, M di merda! Come mi ha fatto un ridicolo a pigliarla in culo? Ehi, ma ce n'è. Io, se sei fatto a chi, se ciu, belli e buonaci. E venne pochi. Ehi, ma c'erano molti anziani, molti di maturi novantenni, mi hanno detto, non pensare che siano tutti giovanotti come te noi, non sessantenni, cinquantenni. A Crepe sono rimaturi che hanno la patente alle migliaia a 20 anni, a 18 anni, a 20 anni, in anni 90. Ce n'è uno, Mimo mi sembra che ci abbia intorno ai 92-93 anni, ma parla molto molto bene, molto molto tranquillo, capito? Però quando da voi ti fate girare i bibiricri, passa via. Allora Gianni, questa tua assenza so che sei andato a Dubai, poi hai fatto il giro lì delle Canarie, sì, poi hai fatto il giro lì del Rio, non so se era Rio Manno o Rio Gabbaro, dove eri? E poi mi sono svegliato tutto sudato. Mamma mia, come sto? Lucarie, finito hai rimasti la borsa del yo-yo? Io sono andato a Rio Gabbaro però. Sì, a Rio di Aliente, c'è da andare, a Rio Vignola. Come va c'è ancora qua, là? Perché ieri avete fatto tardi, vabbè, non tu, no, sicuramente, là. Chi è che ha fatto tardi ieri? Marco, Gianni, tu e Marco? Io sono entrato acceso così alla sconfidata e ho beccato Marco, poi è entrato, credo che sia entrato anche Tino Musco e poi, ormai non mi lamento Gavira. No, siamo stati 10 minuti e poi ci siamo andati la buonanotte, dai, niente di che per me. Poi Marco mi ha detto che era dalle 6 con il microfono in mano, quindi crocro. Ma come avevi in mano il microfono? Ho capito. Vabbè, io già mi ricordo anni addietro, capo, facevamo anche il rischio mattino. Tanto voglio te fumare un cannone. Oh, hai riso per la battuta, giornalismo. Ioia, altri tempi. Ioia, adesso stavo pensando a una cosa, appena ho le idee chiare ve la dico, dai. No, io è partita la radio stasera, non partita, adesso è marciata, è andata via, non c'è più, volata in cielo, volata. Lasciate a prendersela, quindi mi stavo facendo gli spostamenti, capito? A posto messo il 275 H sotto perché era dall'altra parte. Tutto qua, niente di che, e quindi mi stavo pulendo, approfittando a pulire, a togliere la polvere da sotto, dalle basi, eccetera, capite? Per quello sono qua. Tanto in camera da letto, vero grande fratello, il salone, vero grande fratello, in camera di mia figlia c'è la grande sorella, e noi abbiamo grandi guglioni che non sa dove cazzo andare. E vabbè, in camera da letto chi c'è? Grande guglione! Beh! Cosa devo dire tu? In camaretto c'è aria! Capito? Vabbè, stiamo mattando la mia, ok, ma vai do quark! Così mi rincoglionisco ancora di più! Avanti, break! Sì! No, no, non ci siamo! Sì, vabbè, dai! Scendi, no? Già, io, perdonami, io quello ho fatto e funziona. Tu mi hai detto, facevo lo stesso rifletto di questo, io quello lì ho fatto e funziona. Se lì non è quello lì, non so cosa dirti. Non so che dirti, capito? Bianco per me un attimo. Fumala, signor, questo bianco, bianco. Ma la Amelia, fuma. Un bianchino. Che una cremina, ma è. Vabbè, Lucarie, già due ne mancano, anzi tre ne mancano di radio. No, ti vendi pure i mobili, avami, no, non i mobili, quelli che ti ha fatto Giulio, poi ti ho detto capoliti in terra. No, una l'ho già eliminata, una l'ho portata su, c'è la scrivania per il computer, adesso appena, mi sa che quando ci vediamo te lo buccio, ma già cazzo vuoi fare questo computer? Mi, oh no, manco ho rinnovato, mi, è a zero completamente, no, manco ho fatto ricarica, perciò perché l'ho acceso stasera, mi ha fatto vedere un po' di cose, poi boom, si è bloccato, nel senso mi ha detto che non c'erano più soldi, capito? Quindi così questa scrivania la prendo e la porto su. Beato, vai, qualcuno che lo vuole, non è che lo prendi subito, qualcuno che lo vuole, i fissi adesso poca niente, fai qualcuno per lavoro, non lo so, vedi tu, vedi te. Qualcuno per lavoro, cerca, se qualcuno lo vuole per lavoro glielo diamo, lo sai, l'hai comprato tu, l'hai fatto tu, la manutenzione la fai tu, è nuovo, nuovo, funzionante, è anche un bel computer, ma a me non mi interessa, io non sono amante del computer, capito? Non sono proprio amante del computer, perciò niente, ecco qua, tu rimani fermo, ma ti buco pure un racchio da mettere il guglione perché è un bel ragione. Sì, vabbè, io il computer lo uso per lavoro, per fare delle ricerche, tante cose, masterizzare, eccetera, eccetera. Io non capisco una cosa, se quel microfono di Gianni nel Saturnecco funziona e difetta nel 3009, è un problema di... forse non va bene nel 3009, non lo so, forse mai dovrà passare un po' l'amplificazione, cioè troppo alta lì fa quel problema lì. Usciva benissimo qua, il giorno dell'attaccato ho detto già, lascia stare il microfono e con la radio abbiamo uno spettacolo, bellissima, è la stessa cosa, fa a me tra il DAC, ok, faceva tra il DAC e l'Elbex, l'MB più 5 lo mettevo sul DAC, perfetto, una cannonata, lo mettevo sull'Elbex, lo stesso difetto, capito? E se ne è accorto lui, se ne è accorto Gianni. Non lo so. Oh ragazzi, mi sto bevendo una birretta alla vostra salute. Non pesa. E andate che vi dai, non naggio, vabbè, io ho deciso di non berla. Ah, mi interessa. Estate, molto volentieri. Se sono un crepato non due, lo stavo facendo con le giornate là, con Filippo. Fatti sintetici, su Maria, mamma, un caldo, un gas, la birra si parava come leva, quanto leva, poi ce la dava anche il padrone di casa, Fino ci ha dato una busta di lattina di Cnusa, oi oi oi, era un po' caldina, eh. Allora che fine ha fatto? Osso, poi Filippo già ne draga di birra. No, io no, lui, no, io birra questa fatta e niente. Proprio nulla, zero contro zero, acqua un bel, ho tenuto sempre lo stesso peso, ma va bene così, va benissimo così, se no torniamo punto a capo. Vero bombolino, ma stamattina, stasera dove eri? Vicino a casa? Cappa, ero vicino a casa, ho fatto un po' di giri, sì. Ti ho visto, tu manco mica a me, era nata la gabbicuglia io. Lì, in quella via, sono passato, sono. Devo andare in quella via, in via Padula devo andare, lì dietro. Quella via che c'è, in via Calce, è il pezzo che c'è, entri via Varda Basso, giri nel pezzo di via Canofrice, chi si gasi di nuovo in me? Ma qui sei sceso la via Mele, sei passato davanti a me. Sì. E io ti ho visto da sopra, io ti ho visto da sopra il tetto, gappa gappa. Va bene lui, sì, se capita, fattiglio mai là, che tanto lo biglio devo curare sopra, ma sa, faccio che tutto in ordine, lo copro con un lenzuolo, lo metto dove c'è il divanetto, lì lo copro, lascio lì, perché questa scrivania a parte lo stesso. Questa scrivania a parte sui mansarda, anche quella fuori dalle balle, e qua ne scendo il divanetto che c'è su, quello che hai visto su, quello lo porto qua, così mi sdraio a vedermi la TV la sera, e sono qua in sala radio, posso fare radio, guardare la TV, eccetera eccetera. Beh, sai, come vuoi tu, per me è un problema, problemi non ce ne sono, perché me lo chiedono. Però chiedo, capito, è solo che molte volte non ne ho, adesso so che lo stai vendendo tu, poi magari si fa la formatazione e poi vediamo quanto ne vuoi ricavare anche da lì, così se me lo chiedo sanno già la cifra, è la cifra. No, a me non me ne ha fottuta. Se ti chiedono un computer fisso, sappi che c'è quello, lo conosci meglio di me. È della Lenovo, è nuovo, sai quanto c'ha, perché io non capisco un accidenti, quindi. E ti arrangi tu, lo vendi tu, e poi avrebbe scelto a te. Capito mia? Fai te e fai camomilla. Sappi che c'è in vendita, perché io quello domani lo stacco, lo porto su, prima porto su quello, poi scendo e faccio la scrivania. E qua me ne scendo il divanetto. Hai coniato anche tu un altro slogan, è Lenovo e del nuovo nuovo. È Lenovo e del nuovo nuovo, capito? Sì, e come te Permaflex. Ma chi si, non ti chiaro, è che un Lenovo pure, sono i Simoni, Lucariello me l'ha comprato a me, io non faccio niente al computer, io non frequento nessuno, solo a Luca, tutte dove vado, l'ha comprato lui e sono contentissimo, anche non lo uso, è sempre spento, lo carico perché pago 5 euro al mese, è una coglionata, però capito, non lo uso e quindi non me ne ha fatto nulla, zero buco a mezzo alle balle. E no, costa. Cosa c'è costa? La costa sì. Dai ragazzi, riprendo io, dai. Per salutarvi, dai, anche io getto la spugna oggi. Come Zorro, dai. Grazie del QSO per stasera. Da parte mia vi saluto, buonanotte e ci sentiamo a più presto, dai. Sempre qua sul 10, capito? Comunque, dai, salutoni a tutti e alla prossima. Grazie di tutto e come si dice in Callonia, cazzo, adesso non mi viene. Comunque, buonanotte, dai. Aspetta, già ti potrò la fare Claudio. Io ve lo posso anche ordinare, in via Ojai, dove lo volete. E se no, a numero Disney, HK come te chiede te. No, che avremmo certo bullinare, io la prendo qua perché è vicino. Da Benito? Sì, yeah. Ma lei c'è un questo Covid, stanno facendo anche le consegne a domicilio da via Usai, capito? Te lo portano a casa. E quindi è molto interessante, capito? Vabbè. Ciao Gianni, un piacere averti sentito e niente, no, io sono ancora qua, mi adesso devo sottare il DAC, così lo rimetto dentro l'armadio a lui, ha detto ha ragione, gli ho fatto ha ragione, e niente, faccio un po' di, ho fatto un bel po' di pulizia, vai.